in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Potete immaginare che è veramente difficile trovare degli articoli che in qualche modo non siano legati al coronavirus. Ci sono delle notizie, qualcuno meritoriamente cerca di seguire anche le crisi, quelle di cui ci occupavamo prima che scoppiasse, quella del coronavirus, quella naturalmente la guerra in Siria e la crisi tra Turchia e Grecia, sui confini tra Turchia e Grecia e molte altre ancora. E vedremo che ancora qualcuno cerca di almeno cercare di aggiornarci su quello che sta succedendo. Iniziamo però, visto che questa una volta era una rassegna esclusivamente europea, adesso abbiamo un po' allargato gli orizzonti, ma comunque parte dell'Unione Europea siamo e molto si discute del ruolo dell'Unione Europea in questi giorni. Partiamo da Vox Europe, che ha tradotto questo articolo da La Libre Belgique, una rivista belga, che si intitola L'Europa dei governi sovrani alle mani legate. Nathalie Brack, Ramona Comane e Amandine Crespi spiegano che appunto l'epidemia di coronavirus dimostra in tempo reale e nei fatti la capacità di coordinamento degli stati europei in un'Unione Europea in cui sono essi ad avere l'ultima parola. Sono tre studiose, tre ricercatrici dell'Università di Bruxelles che spiegano che naturalmente capiamo tutti gli appelli o magari anche poco razionali di questi giorni di tutti i cittadini, istituzioni, politici, di partiti di maggioranza o di opposizione dei vari governi a dire dov'è l'Europa, l'Europa ci aiuti. Ricordiamolo sempre che poi su moltissimi temi hanno voce soprattutto i singoli governi e che quindi semmai all'Unione Europea spetterebbe un ruolo di coordinamento, ma per farsi coordinare ci vuole appunto la buona volontà dei singoli, quindi è una situazione difficile che sicuramente alla fine potrà dare un quadro più preciso di che cosa intendiamo veramente come singoli paesi con Europa. Sempre sul tema Europa, Alternative Economique, il magazine sempre in lingua francese ma proprio francese non belga, spiega le 5 decisioni urgenti per contrastare la crisi. Guillaume Duval dice da più parti si esorta l'Unione Europea a intervenire nella crisi dovuta alla diffusione del coronavirus, ma l'Unione ha poco margine di manovra in campo sanitario. Questo ricordiamocelo sempre, non esiste un ministro della salute con competenze simili europeo, con competenze simili a quelle che attribuiamo ai singoli ministri della salute. Però certo, e questo lo stiamo vedendo nei giorni scorsi, in questi giorni proprio, mentre settimana scorsa con la prima uscita ufficiale di Christine Lagarde da Presidente della Banca Centrale Europea e le infelicissime parole sul ruolo che la Banca Centrale Europea può avere sugli spread, in quel caso in particolare sullo spread italiano tra titoli di Stato italiano e Bund tedeschi, dopo quell'infelice uscita ha poi un po' corretto il tiro, non possiamo certo parlare di mea culpa, però ha dimostrato, e questo scrive anche Alternative Economique, che l'Unione Europea può avere un peso in materia economica e monetaria per contrastare la recessione che ormai è inutile negarci, è alle porte. E ci sono poi naturalmente, si entra un pochino più nel dettaglio, si parla di quantitative easing, del famoso bazooka, ribattezzate le mosse di Mario Draghi con questo gigantesco quantitative easing che aveva deciso, e vedremo appunto come si muoverà la Banca Centrale Europea, ma è sicuro che un ruolo lo può avere. Un altro articolo importante, sempre su Vox Europe, sono i dati raccolti dall'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, in questo caso in particolare da Federico Caruso, che partendo dai numeri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, spiega quali sono le differenze tra sistemi sanitari europei e se possiamo definirli pronti per l'impatto del coronavirus. Naturalmente che cosa si intende per impatto del coronavirus? Cioè, dipende se le persone avranno bisogno di cure in reparti di subterapia intensiva o di terapia intensiva, o se semplicemente si potrà per esempio usare una rete che in molti paesi è già attiva di assistenza domiciliare o comunque di monitoraggio a distanza. Cambiamo un pochino argomento, credo che siamo tutti un po' contrastati tra la tentazione di aggiornarci costantemente, probabilmente nella speranza di ricevere buone notizie sul coronavirus, ma anche il desiderio, quasi l'esigenza di anche parlare d'altro, diciamo. E allora vi segnalo da Internazionale, tra l'altro Internazionale è uscito un nuovo numero naturalmente ieri, ma resta in edicola anche con quello della settimana precedente, perché naturalmente abbiamo tutti oggettivamente più tempo, lavorare da casa, e gli inglesi lo chiamano smart working, che vorrebbe dire lavoro intelligente, quindi probabilmente se ci organizziamo bene facciamo le stesse cose, portiamo a termine gli stessi compiti da casa, ma ci avanza del tempo. Poi c'è chi proprio deve stare a riposo perché non può lavorare da casa. Il suo tipo di lavoro non lo prevede e quindi a maggior ragione ha più tempo, figli, famiglia e altri impegni permettendo. E allora, per esempio, consiglio davvero la lettura di questo articolo tradotto dall'Economist che si intitola Il secolo del pianoforte cinese. Pensate che su 50 milioni di bambini che studiano il pianoforte in tutto il mondo, 40 milioni sono cinesi. Solo a Shanghai ci sono più di 2.700 scuole di musica. Questo è interessante un po', sappiamo che la scuola, l'istruzione ha sempre avuto un ruolo nei paesi comunque comunisti o ex comunisti o legati all'ex Unione Sovietica e nella stessa Russia. Ma spiega questo interessante articolo che dove in passato la musica classica occidentale è riuscita a mettere radici, oggi fioriscono i pianisti e le loro interpretazioni. La Cina è in grado di offrire al mondo composizioni di primo livello, dicono alcuni dei responsabili di queste scuole. Rimangono però alcuni dubbi in patria e all'estero sulla capacità dei musicisti cinesi di unire genialità e immaginazione alla innegabilità della qualità tecnica. E ora, insomma, vedremo nei prossimi anni se dalla Cina appunto arriveranno grandi talenti, ma può anche essere semplicemente che questi 40 milioni di bambini che stanno studiando il pianoforte diventino 40 milioni di adulti che suonano il pianoforte per diletto e non per professione. Invece cambiamo continente. Ricorderete sicuramente la vicenda di Evo Morales, che è ex presidente della Bolivia, accusato di aver manipolato il risultato delle elezioni del suo paese di ottobre. Il esiliato cerca comunque di restare attivo, ma scrive Financial Times, in Bolivia Evo Morales è sempre più isolato. E naturalmente il problema è che mentre Evo Morales, il problema, diciamo, il fatto, la situazione è che Evo Morales aveva proprio una matrice socialista, in questo momento il presidente ad interim è Jeanine Agnès, che è di destra, e la sua popolarità è in crescita. Quindi in un eventuale secondo turno vedremo appunto che colore prenderà questo paese, che come tanti paesi del Sud America è un po' una palestra, un laboratorio di nuove forme di politica, ma soprattutto viste anche le tantissime disuguaglianze sociali che permangono in Bolivia, ma anche in altri grandissimi paesi del Sud America come il Brasile, può essere anche appunto un nuovo modo di intendere diciamo il socialismo, la socialdemocrazia. Vi segnalo poi, tornando al coronavirus, la copertina dell'Economist di questa settimana è un disegno del mondo e poi c'è come se fosse l'insegna di un negozio, c'è attaccato sopra il cartello closed. E però per fortuna ci sono anche altri articoli all'interno dell'Economist, che comunque è un numero con il consueto numero di pagine. Per esempio, un approfondimento su quello che sta succedendo in Etiopia. Parlavamo appunto di guerre dimenticate. È vero, l'Etiopia ha siglato uno storico accordo di pace nello scorso anno con l'Eritrea, dopo decenni di guerra quasi fratricida. Ma in realtà all'interno del paese c'è ancora una strisciante guerra civile che, come tanti, tanti altri eventi locali, di paesi che sono magari, già comunque, lontano dalle cronache, principali dei grandi media, in un periodo come questo, lo ripetiamo, sembra è tutto monopolizzato e questo, naturalmente porta alla necessità di andare comunque di imporci, di vedere che cosa sta succedendo in posti dove c'erano dei focolai di guerra. Tornando alla Germania, o meglio, tornando in Europa, vi segnalo un articolo della Frankfurt Allgemeine Zeitung. In realtà è a maggior ragione attuale alla luce dell'epidemia di coronavirus, però è comunque interessante perché si parla sempre di quanto sia alta l'imposizione fiscale in Italia. Certo, per chi paga le tasse è altissima. Anche in Germania però ci sono alcune lamentele e la FAZ ha pubblicato questa indagine condotta dall'Istituto di Monaco di Baviera. Era IFO, sentendo molti economisti, e il risultato è che la Germania dovrebbe ridurre le aliquote fiscali per le imprese. Una limitata maggioranza di economisti è favorevole a ridurre anche l'imposta sul reddito fino al 10%, e così il peso fiscale arriverebbe circa al 25%, come per esempio negli Stati Uniti. Parliamo sempre di media, naturalmente. Ultima segnalazione ci riporta in Sud America da El País edizione brasiliana, che ha condotto un sondaggio questa volta tra i cittadini brasiliani, dal quale risulta che al 64% dei brasiliani non piace il modo in cui il presidente Jair Bolsonaro sta affrontando l'emergenza coronavirus e il 45% si dichiara favorevole addirittura a un impeachment del capo dello Stato. Ricordiamo che insieme a Donald Trump e fino, diciamo, a 3-4 giorni fa a Boris Johnson, premier del Regno Unito, Jair Bolsonaro era, potremmo chiamarlo, il negazionista in chief dell'epidemia di coronavirus. Per dovere di cronaca, Donald Trump continua a chiamarlo non coronavirus ma virus cinese, ma in ogni caso almeno ha ammesso e decretato lo stato di emergenza per l'intero paese. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.